Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di due libri con due autori, un libro dedicato alla pubblica amministrazione e un libro dedicato all'innovazione e alla ricerca nel nostro paese. Il primo libro è di Fabrizio Tuzzi. Buonasera, professor Tuzzi. Buonasera a lei, dottor Fabi. Fabrizio Tuzzi è stato direttore generale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, si occupa ancora di ricerca in Italia e ha dedicato questa ricerca alla pubblica amministrazione. Amministrazione pubblica dall'egoismo alla competizione. Manuale per una sopravvivenza operosa. Ecco, il tema dell'amministrazione pubblica è un tema molto delicato. L'amministrazione pubblica viene definita normalmente la burocrazia e quando si parla di burocrazia si parla di lentezze, di confusioni, di ritardi e così via. Questa immagine della pubblica amministrazione, professor Tuzzi, è reale, è ancora vera? Allora, assolutamente sì, anche se nel libro l'idea è quella di discutere di pubblica amministrazione cercando di sfatare alcuni falsi miti e di mettere in evidenza temi su cui si basa il buono o cattivo funzionamento della burocrazia e che non sempre vengono considerati quando si esamina appunto il funzionamento della pubblica amministrazione. Ecco, uno dei punti centrali del libro mi sembra quello in cui si dice che l'amministrazione non è una macchina, è fatta di persone e ciascun individuo persegue un suo scopo personale, che poi è uno scopo anche quello di fare il proprio dovere in fondo. Quindi è forse questo fatto di responsabilizzare le persone che ostacola l'efficienza della pubblica amministrazione? Esatto, perché il libro parte dalle teorie di una scuola economica che è conosciuta come public choice e sul tema proprio della pubblica amministrazione questa teoria sostiene che essendo composta da un insieme di individui, ciascun individuo persegue un proprio interesse. Ora, il dipendente pubblico, diciamo da questa analisi, ne risulta che non è che si comporti in maniera buona, cattiva, in maniera diligente, perché è particolarmente buono, cattivo o dirigente, ma perché in quella circostanza ci sono alcuni stimoli o l'organizzazione o gli incentivi che ci sono per seguire le sue normali regole di interesse, non può che comportarsi in quel modo. Allora, e il problema da che cosa nasce? Che molte volte gli obiettivi personali del funzionario pubblico con quella serie di condizioni a contorno, di incentivi, eccetera, non collimano con l'interesse poi di chi quei servizi li deve ricevere. Quindi certo, il problema è proprio quello, che occorrono regole e incentivi appropriati per far collidere, coincidere i due interessi, diciamo quello dell'impiegato pubblico e degli impiegati pubblici con quello dei cittadini che ricevono il servizio. Ecco, però con due problemi, uno di partenza e uno di arrivo. Il primo di partenza è quello della formazione, che lei mette in rilievo appunto nel libro dell'apparato, di chi lavora all'interno della pubblica amministrazione, e il punto di arrivo è la valutazione di questo di quello che si fa. Forse questi due elementi, la formazione da una parte e la valutazione dall'altra, in Italia avrebbero bisogno di quella riforma di cui si parla tanto e che è un po' come l'araba fidice, che ci sia ciascun lo dice, dove sia nessun lo sa. Parliamo sempre di riforma della pubblica amministrazione, ma a che punto è questa riforma, dottor Tuzzi? Adesso stiamo ulteriormente alla riforma della riforma, cioè nel senso che l'ultima riforma, che era quella del 2009, la cosiddetta, conosciuta come legge Brunetta, che introduceva il tema della valutazione individuale quale possibile soluzione del miglioramento della performance della pubblica amministrazione. Ora, quella legge per questo aspetto non è mai stata implementata, perché come sa dal 2009 è stato bloccato il contratto del pubblico impiego e quindi era quello lo strumento per poterla poi applicare. Certo. Quindi di valutazione individuale non ne abbiamo parlato, però ne sono stati implementati tutti gli aspetti formali, quindi gli uffici pubblici sono pieni di piani triennali della performance, piani triennali della trasparenza, quindi carta su carta che si è accumulata, ma di valutazione non se ne è mai parlato. Ora, diciamo, la novità è che prima, non so se si ricorda, prima della tornata referendaria c'è stato un accordo fra governo e sindacati per riprendere la contrattazione e all'interno di questa intesa c'era anche il discorso di riprendere il tema della valutazione e della valutazione certo, individuale, anche se a mio parere rimettere il tema della valutazione individuale all'interno della contrattazione, quindi fra sindacati e amministrazione, secondo me, come posso dire, rischia di rimandare ulteriormente alle calende greche il tema della valutazione in Italia. Questa è una realtà realtà che purtroppo si ripete. Io vorrei concludere con una domanda, dottor Tuzzi, proprio sulla pubblica amministrazione. Possiamo sperare che queste nuove tecnologie, le nuove opportunità offerte dall'informatica, dalle telecomunicazioni, dall'automazione, che anche nella pubblica amministrazione sono state recepite, stanno facendo passi avanti, possano essere, se non la soluzione, però un aiuto ad andare verso una maggiore efficienza che tutti si aspettano e da tutti è in fondo è dovuta? Assolutamente, assolutamente sì, le tecnologie dell'informazione saranno fondamentali. Il problema, bisogna stare attenti, è che non serve sull'organizzazione attuale mettere tecnologie dell'informazione, quindi acquistare certo. computer o fare investimenti sulle tecnologie dell'informazione, ferme restando le attuali condizioni organizzative. Bisogna adeguare, bisogna riscrivere i processi in funzione delle nuove tecnologie. Allora solo in questo modo le tecnologie potranno dare una mano a migliorare la performance della pubblica amministrazione. Che è una cosa in cui tutti speriamo. Grazie dottor Tuzzi di essere stato con noi. Abbiamo parlato del suo libro Amministrazione Pubblica, dall'egoismo alla competizione, manuale per una sopravvivenza operosa, edito da Rubettino, 174 pagine per 12 euro. E dopo aver parlato del libro di Fabrizio Tuzzi sull'amministrazione pubblica, parliamo di ricerca e innovazione nel futuro del bel paese con il libro di Lucio Bianco e Paolo D'Anselmi, Il vantaggio dell'attaccante. Ecco, con noi Lucio Bianco questa sera. Buonasera, professor Bianco. Buonasera. Lucio Bianco è ingegnere, professore ordinario di ricerca operativa all'Università di Roma, è stato direttore del Dipartimento di Ingegneria dell'Impresa, è stato ricercatore del CNR, quindi è persona informata dei fatti sulla ricerca. Con questo libro parla di vantaggio dell'attaccante. Qual è il senso di questo titolo? Ma guardi, il senso di questo libro è essenzialmente questo. Noi riteniamo che se l'Italia vuole uscire dalla crisi, dalla stagnazione o comunque superare questo dibattito della crescita dello 0,1-0,2, deve puntare sulla ricerca e sull'alta formazione. Questo è il punto, e i dati che portiamo nel libro dimostrano un po' che c'è questa esigenza. Ecco, questo perché la ricerca italiana è una ottima ricerca in senso qualitativo, però con che cosa manca? Sì, guardi, quello che se confrontiamo, come abbiamo fatto noi nel libro, i dati di input, cioè praticamente le spese in ricerca e il numero dei ricercatori, quindi diciamo la consistenza numerica e la struttura del nostro sistema scientifico, riscontriamo che noi siamo in Europa, rispetto ai grandi paesi con cui ci confrontiamo, siamo ultimi, cioè abbiamo un terzo dei ricercatori della Germania, la metà della Francia e del Regno Unito, paesi che sostanzialmente sono simili a noi per dimensione ed esigenze di ricerca. Se però andiamo a guardare come si comporta questo sistema scientifico, dobbiamo riscontrare che il nostro paese si comporta molto bene, la produttività dei ricercatori italiani è al primo posto, viene prima degli altri paesi, così come anche le citazioni dei nostri ricercatori hanno avuto anche il plauso qualche anno fa della rivista Nature. Quindi è solo un problema di finanziamenti, di soldi? Un problema di finanziamenti, però correlato al fatto che bisogna mettere sangue nuovo nel sistema, cioè bisogna aumentare il numero dei ricercatori. Il nostro numero di ricercatori è del tutto insufficiente rispetto alle nostre esigenze. Ma questo perché si disperde forse un po' questa ricerca, non si finalizza verso pochi ma chiari obiettivi? No, ma non è tanto questo, che non si finalizza, è proprio che le dimensioni del nostro, il nostro sistema è gracile, diciamo, se vogliamo dirlo in poche parole, in Italia si fa poca ricerca, ecco, questo è il punto. Naturalmente facendo poca ricerca uno non sa nemmeno su cosa puntare più l'uno sull'altro, perché comunque è una ricerca insufficiente. Quindi poca ricerca sia pubblica sia ricerca privata, sia sì, da parte io parlo dell'impresa. In generale, certamente, ricerca pubblica e ricerca privata. Se noi andiamo a scomporre, l'Italia investe in percentuale del PIL l'1,46%, ultimi dati che riportiamo nel libro, di questa percentuale il 46% è privato e l'altro è pubblico, mentre questo rapporto negli altri paesi è invertito. Negli altri paesi per ogni euro di investimenti pubblici ci sono 2 euro di investimenti privati, ecco, quindi bisogna ribaltare anche questa situazione. E quindi una diversa politica per l'innovazione, una politica che guardi ai due settori però. Esattamente. niente, noi proponiamo, facciamo delle proposte anche lì, per una diversa politica di incentivazione della ricerca industriale, quindi, oltre che di potenziamento della ricerca pubblica. Quindi più risorse, ma anche una strategia più finalizzata a sostenere. Esattamente. Ecco, queste le risorse devono essere finalizzate, non devono essere fine a se stesse, devono essere finalizzate a far sì che il nostro sistema cresca sul piano dimensionale. Grazie professor Lucio Bianco, anche per questo in fondo appello al fare di più per la ricerca, che può essere positivamente una svolta in un paese che ha bisogno come l'ossigeno di crescita. Abbiamo parlato con Lucio Bianco del libro Il vantaggio dell'attaccante, ricerca e innovazione nel futuro del bel paese, scritto insieme a Paolo D'Anselmi, edito da Donzelli, sono 114 pagine per 18 euro. Nella prima parte avevamo parlato del libro di Fabrizio Tuzzi, Amministrazione pubblica dall'egoismo alla competizione, edito da Rubettino, 174 pagine per 12 euro. Grazie al professor Bianco e al professor Tuzzi, grazie anche a Filippo Reggi in regia e a Luca Cremonese in redazione. L'appuntamento con Economia in Pagina per sabato prossimo.